Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Fa finta che so gocce derugiada. Roma nuda. Io credo che quello che sia accaduto è segno di barbarie e di inciviltà. Noi spesso ci buttiamo giù, noi non andiamo all'estero a fare queste figuracce. C'era una donna che m'ha rovinato. Comunicato stampa che può fare il Feyenoord a 5 lettere, scusa. Scusa. Sì, d'accordo. Poi I'm sorry, trovino il modo, non so come si dice in olandese. Scusa, si perdo lacrime in strada. Io ho una proposta concreta, se non arriva il ma anche se arriva il comunicato di scuse è arrivato, forse. Facciamo un blitz a Rotterdam. I tifosi del Feyenoord vengono da Rotterdam. Facciamo un blitz a Rotterdam. Delle teste di cuoio italiane. Prendiamo il sindaco. Lo riportiamo in Italia, ce lo teniamo qui. Tanto Roma è una bella città, ce lo teniamo qui finché non paga i danni, si divertirà. Roma è una bella città, è tranquilla, magari qualcuno dice un po' sporca e va bene, ma ci sono tante cose da vedere. C'è la barcaccia del Bernini che hanno devastato prendendo dei calcinacci e buttandoli nell'acqua, no? con le sciarpe del Feyenoord attaccate alla barcaccia del Bernini. E quanto costerà rimettere a posto la barcaccia del Bernini, mettendo insieme anche tutto il danno culturale, archeologico che hanno fatto? Non so, 3 milioni di euro? E vabbè, sta qui, da qui fa i consigli comunali di Rotterdam, mette delle tasse per far pagare a tutta la cittadinanza di Rotterdam, anche quelli del calcio, che il calcio non gli frega niente. Così, ma modesta proposta delle 6:31 minuti. Roma nuda. Gente che pisciava per strada davanti ai bambini. Vabbè, poi ovviamente botte. Hanno rotto, devastato Piazza di Spagna. I tifosi del Feyenoord, i simpatici tifosi del Feyenoord, conosciuti in Europa per essere antisemiti, un po' fascisti, un po' nazisti. Il gruppo ovviamente quello caldo, quello storico. Dai, su, ministro Pinotti, organizza un blitz, andiamo a Rotterdam a prenderci il sindaco, magari è pure tifoso del Feyenoord e ce lo portiamo qua. Trattiamo bene, non so chi sia, diamo le fettuccine, un po' di gricia, però paga, tanto paga i danni. Vabbè, c'è anche questo, c'è anche questo. Allora, alle 6:31 minuti, queste 24 mattino, voglio salutare subito il nostro amico Vincino. Vincino, come stai? Sto bene, Alino, hai fatto forse una... cioè, il sindaco di Rotterdam è l'unico sindaco islamico che c'è. No, veramente? Sì, no, non è vero. No, sì, mi stai perculando, no, come si sa. Guarda, ti assicuro, l'ho sentito ieri o l'altro ieri da qualche parte. Guarda, vediamo subito, sindaco di Rotterdam. No, ho creato subito un disastro, scontro di civiltà. Diplomatico, esattamente. Tagli della testa. No, come dire. Sindaco musulmano di origini marocchine, Ahmed Abu Taleb. L'ISIS poi è come tutte. No, ho fatto un disastro. Vabbè, come dire, giuro, non lo sapevo. Vabbè, infatti per questo che Vabbè, allora, Vincino, fammi fare la classica gaffe che aggrava tutto. Vabbè, sì. Prendiamo due piccioni con una fava. Stupendo. questa va bene. No, disastro. No, io mi scuso ufficialmente con il signor sindaco di Rotterdam. Scusate, non so pronunciare bene l'olandese. Ahmed Abu Taleb, brutto cretino d'un Milan, in carica dal 2009. Vincino, però no, comunque vabbè, parliamo d'altro. Facciamo finta che io non abbia detto nulla. Come stai? Hai avuto una colica renale, si può dire, si può quattro dire. Notti fa, terribile, guarda, terribile, le quattro di notte è una cosa di quelle, so, è capitata anche a me, terribile. Con tassi e poi è andato al pronto soccorso San Giovanni, mi hanno fatto entrare subito, codice subito. Non so quale, paf, proprio. Secondo me tutti. Si dice, perché ti sei presentato come Vincenzo assolutamente no, mi hanno infilato una flebo, mezz'ora dopo era passato quasi tutto. Vabbè. Più o meno, no, allora. Mi hanno fatto 79, ma sai, difficile era uscire, perché mi hanno avvisato tre persone diverse per farmi uscire, perché loro hanno il terrore che uno esce dal pronto soccorso e mezz'ora dopo muore, dico, non può essere, ecco qua. Va bene. E ti fanno attenzione. Vabbè, fammi salutare subito il direttore di Affari Italiani.it, Angelo Maria Perrino, buongiorno direttore. Eccomi. Eccoti buongiorno, qua. Buongiorno a voi. Senti, tu riesci a rimediare alla mia clamorosa gaffa di voler rapire il sindaco di Rotterdam? Mi pare che oramai è fatta. Non possiamo tornare indietro lì, stamattina va bene così, con una fava mi sembra una buona soluzione. Ecco, esatto, va bene. Allora, siamo qui, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapelli in regia, e apriamo il Parlamento, no, per adesso battute a parte. Adesso c'è la questione del blitz, sì, era una semibattuta, in realtà. Voi che fareste? Ecco, cari ascoltatori, 349-238-6666, che fareste? Hanno devastato Roma, colpa di chi? Allora, Marino, il sindaco, dice che è colpa del questore e del prefetto, che al mattino avevano tranquillizzato, tutto a posto, sono sotto controllo. Peraltro, direttore Perrino, vogliamo dire anche una cosa, perché noi siamo abili sempre a scaricare le responsabilità. C'era un'ordinanza del sindaco che vietava la vendita di alcolici. Secondo te quanti l'hanno rispettata questa ordinanza del signor sindaco? Ma da quello che si vede dalle scene direi nessuno, cioè sono le solite cose all'italiana, si mettono per iscritto i provvedimenti ma poi si fa nulla o quasi nulla per verificare che siano applicati. In altri paesi si è molto più rigidi, molto più duri. Sì. Siamo sempre al paese così, alle cozze. Pulcinella. Adesso, per carità, non voglio scaricare la colpa a quello che ha venduto la birra o le 50 birre al tifoso del Feyenoord. Però se c'è un'ordinanza per vietare l'alcolico, forse un motivo ci sarà, un motivo come, di rischio. Come diceva Flaiano, in Italia la situazione è sempre molto grave, ma non seria. Vabbè, Vincino, ma tu eri in Piazza di Spagna ieri, no? Mica che... No, non sono riuscito a passare, era un disastro là, proprio era... Ma hai visto qualcosa? Hai sentito qualcosa? Fai un po' il cronista. No, ero lontano, no, è che faccio il cronista. Io un minuto di pomeriggio stavo là a disegnare, per cui non è che... In generale, il pomeriggio sto a casa, o sto al foglio, o sto alla Camera dei Deputati, questi sono i miei posti. E lì non arrivano, i barbari, no, barbari vicino, non dire, là vicino si sentivano, pam, pim, pam, botte, cose, però naturalmente se io fossi uno che c'ha un bar venderei birra quel giorno alla grande, non è che... Ma c'è un'ordinanza. Cioè, ho poi capito, ti devastano il bar magari se ho li, capito, se ma l'ordinanza di quel di Marino che aveva la sua onlus e pagava 150 euro al mese. Lascia stare, quella è un'altra cosa, è un'altra questione. Ho capito, ma uno mette tutto insieme. Ma allora siccome è una ordinanza del sindaco Marino non vale. Quello è il sindaco che avete votato, eh? Quello è il sindaco che avete, non è che poi discorso. Ma l'alternativa era quello terribile, quello che assumeva tutti i segretari di sezione Messina. No. Alemanno era con Alemanno, la cosa più terribile che ci sia stata. Che assumeva, poi beccati tu le querele che dice. Ma che bello, ha assunto 560, insomma. 2500. No, vabbè, però il problema rimane, direttore, cosa si fa in questi casi? Cioè, chi è che paga adesso? Noi? Cosa si fa? Mamma mia, paga Roma, paga il nostro patrimonio culturale, paga Bernini, paghiamo tutti. Tra una settimana non se ne parlerà più, perché il calcio è la nostra pratica nazionale e dunque, come si sa, il calcio è legibus solutus, cioè non si applicano le leggi quando c'è in ballo il pallone. Un po' è così. Colta è buona, vedi? Assolutamente. Vedi. Io invece sono più due piccioni con una fava, sono più una roba. Sono più terra a terra. Mamma mia, che gaffa col sindaco musulmano. Vincino, ma sei sicuro che è musulmano? E così dicono, vero? Dicono, non lo so. L'hanno detto l'altro ieri dicendo, ma non è vero, per giunta Rotterdam. Ma sarà uno che non segue il calcio, lasciamolo lì. Mi sembra, lasciamolo lì. Sarà uno che non ama il calcio e quindi non c'entra nulla in questa vicenda il sindaco di Rotterdam, effettivamente. Lasciamolo bene dove sta. Che non... Sarà come Erasmo da Rotterdam, farà l'elogio della follia questo sindaco. Esatto. Bruciamo tutti i libri di Erasmo da Rotterdam, vicino, ti va bene? Bruciamo i libri. No, l'unica cosa carina che aveva scritto era quello, là, l'elogio della follia. Già ripreso da Silvio Berlusconi. Infatti, tra i libri del liberale tipico e per bene. Comunque, tra l'altro, a proposito dell'ISIS, ma vogliamo, perché questa cosa un pochino è scemata, io ho paura che ci siamo fatti un po' prendere dal panico, Vincino, su questa... Ci ha tranquillizzato Alfano, cioè, mentre i servizi segreti inglesi ci dicono state attenti, perché Alfano è assolutamente no. Ha detto che Roma è un obiettivo virtuale, tranquilli, virtuale. Sì, sì, sì. E come tranquillizzavano i questori di Roma l'altro ieri, esattamente nello stesso modo, ecco. Per cui vi dà tanto. No, io vorrei sapere come si vive a Roma, però Vincino dice. No, ma a Roma si vive qua, non è che io qua dove sto, a Gay Street alla grande, guarda. Sempre cos'è Gay Street? Cos'è Gay Street? Io abito a Gay Street. No. Nella via San Giovanni in Laterano, praticamente. Vabbè, adesso dai anche il civico, così la gente ti aspetta. No, è lunga via San Giovanni. Bazzicate da quelle parti. È considerata la Gay Street. Hanno detto entreremo in Roma e gli hanno detto sì, ma non dalla tangenziale che vi bloccate. Sì, sul grande raccordo, effettivamente. Li stroncheremo così col traffico. esatto. No, ma al di là di tutto, Perrino, queste minacce. Sono serie, non sono serie? Sì, sono minacce serie, ci sono degli allarmi dei servizi segreti, non solo italiani, quindi più seri del solito, ci sono, Roma è la capitale della cristianità, sono in Libia, sono a due passi dalla Sicilia, quindi le minacce ci sono, ISIS sceglie bene gli obiettivi, sa far notizia. E quindi bene l'allarme, so che a Roma stanno arrivando rinforzi un po' da tutta Italia, ero l'altro giorno, ho visto i mitragliatori nelle mani di poliziotti che solitamente trotterellando guardano questi obiettivi sensibili, e il clima sta diventando quello che si temeva. Sì, il timore è che sia un po' un clima però anche esagerato. Sentiamo Renzi, ieri Renzi era da Nicola Porro a Virus, sentiamo Renzi sull'Italia, la guerra, l'ISIS. L'Italia ha bisogno della comunità internazionale, l'Italia non fa avventure belliche perché si toglie dalla testa l'idea che facciamo, andiamo a fare una guerrettina, dove si va oggi a fare la guerra, noi non siamo questo. Ma partecipa. Non c'è la sottovalutazione, ma non c'è neanche l'idea di dire aiuto, siamo assediati, un po' di sano senso della realtà. un po' così, no? Un po' democristiano, sì, come caro Vincino. A proposito, sì, di democristiani, questo da Lecce ci dice, effettivamente ci scrive, dove non abbiamo più notizie del busto di Andreotti. È silente. No, sta là, ho capito, ecco, sta ecco, là ecco, nel terrazzo. Nel giardino, praticamente. Sì, c'è il cane là vicino che trottella, perché di mattina va a fare i suoi bisogni sempre là vicino. Povero Andreotti. Ma è un dalmata, è un vecchio dalmata. Allora il dalmata per l'affetto verso i 101 la carica. Sai che Perrino Vincino c'ha il busto di Andreotti in marmo, la sai questa? Sul terrazzo. Ma è vero, c'ha un busto di Andreotti, ci ha mandato la foto, mandala anche a Perrino, te la pubblico. Sì, www.affariitaliani.it, Angelo Chiocciola, affariitaliani.it, la facciamo vedere su Affari Italiani. Ma è fantastica questa, mandagliela, è un lascito del male, quando era al mare. Ah, che bello. Quant'è che pesa in marmo di Carrara, mica no, una roba. È pesantissimo, cioè quando l'abbiamo messo al pincio e Benigni ha fatto il discorso inaugurale, arriva la polizia, se lo va a prendere... In due cadono, perché credevano fosse di gesso, ma invece era di marmo. O volevano arrestare Andreotti, no, questi qui. Sono tutti sei mesi. Dai, lo pubblichiamo su Affari Italiani. Questa è la vera notizia, che hanno arrestato Andreotti per 6 mesi, però era il busto di marmo. Eravamo nel 79, di Vincino. Molto prima di quando ebbe i suoi guai giudiziari. A proposito di guai, caro Vincino, senti questa, la racconta il Fatto Quotidiano. Tu non sai chi è Mohamed Sabanne, non lo sai perché, ma no. 36 anni, è un vignettista palestinese, è stato sospeso dal suo giornale per avere osato disegnare, indovina chi, il profeta, ma era una vignetta assolutamente positiva, proprio con lo scopo di far apparire l'Islam sotto una buona luce, ma pur anche solo disegnando il profeta, sai che non si può per l'Islam, ci risiamo, caro. Preso 200 frustate, hanno no, no, no, è stato sospeso dal giornale, buttato. gli è andata bene. Ho capito. Capisci? Sì. Lo so, non voglio ritornare su queste cose. Altro argomento. Che frustate potremmo darle a Gino Paoli stamattina. No, io ho tutta la mia solidarietà a Gino Paoli. Eccolo lì. Ma Gino Paoli, da quando c'era una volta una gatta in poi, mi ha dato il primo ballo, i primi baci, le prime cose. Mi ha dato tantissimo. Ma stavolta piuttosto che dare si è preso. Si è preso, ma dai, ma tu. Ma dai, ma Vincino, siamo garantisti. Sentilo un po', dai. Gino Paoli, la bilancia è una disquiglia. Gino Paoli. Ma alberi infiniti, quando sei qui vicino. Senti Gino Paoli chiamato dalla zanzara. Questo soffitto viola. Cioè, penso che potrò chiarire tutto e che la giustizia farà il suo corso, tutto lì, punto base. Io vedo il cielo. Dichiarazione molto, molto. Poi avrà sbattuto giù il telefono, chiaramente. 2 milioni in Svizzera, 800.000 euro è l'evasione per la quale è accusato, no? 2 milioni non scusati. La gente che si scatena, il cielo in una banca, è Perrino, adesso ovviamente tutta l'ironia sui titoli, 4 amici in Svizzera. Gatta Cicova. Questa è mia, eh? Sì, vabbè, ma certo. Vabbè, ho capito, posso fare un'osservazione un po' antropologica? Sì. Se la unisce alle vicende del premio Grinzan, cioè questi dei sinistra, no? Augias, questi qui, per carità, poi bisogna verificare. Comunque viene fuori questa doppia morale, no? Cioè qui ci sono in ballo anche finanziamenti, cioè pagamenti per il Festival dell'Unità. Questi di sinistra che fanno la morale agli altri e poi in privato si comportano, fanno le porcherie. Anche oggi Libero dice a questo premio, in realtà si dice Grinzani, credo. A questo premio c'era anche Ezio Mauro, no? Poteva non sapere. Libero si chiede questo. 24 mattino. Ciao Milo, finalmente vedo che ti stai arrampicando sui vetri. Non sai più come parlare dell'Isi, non sai più come parlare della politica, non sai più come parlare di Shadow in Francia, non sai più come parlare dei nostri parlamentari che stanno continuano a rubare alla gente. E fino adesso che parli di puttanate. Ciao Alessandro, sono Gianluca da Lugano. Niente, secondo me Renzi non vuole i talk show, comunque ne parla male, semplicemente perché il talk show è un luogo dove i politici parlano e grazie a Dio parlano male anche di lui. Bravi, bravi, continuate così, radio, televisione, giornali, a dire cosa devono o non devono fare a questi sacchi condominiali del sultanato islamico per farci del male, per arrecarci danno. Continuate così, continuate così. Vedi caro Milan, voi fate parte di un sistema che è tutto d'accordo, capito? Che crea delle situazioni che non si possono più sopportare. Milan, mi sembra di vederlo Prodi che lo prendono giù in Libia, lo mettono a porchetta sul girarrosto, con tanto di occhiali. Ciao. L'immagine la regalo a Vincino, è questa di Prodi come un girarrosto messo in Libia, non lo so. Vincino ti può apparire, ti viene già una vignetta. No, ma quelli poi sono islamici, non mangiano certe cose. Sai che il migliore messaggio arriva da Rossana, dov'è che è Rossana? Riguardo al sindaco di Rotterdam, Eccolo qua. Aspetta, l'ho persa. Anche se è musulmano non deve pagare i danni. Ecco, questo dice. Anche se è musulmano. Che vuol dire anche se è musulmano, Rossana? Sembra quasi perché non deve pagare i danni anche se è musulmano. Vabbè, c'è invece Gianni da Cesena che dice: farei quello che hai detto tu, non lo rapirei, ma lo inviterei a venire a Roma a pagare, musulmano o no. Musulmano o no. Allora, questa storia di Gino Paoli, perché Vincino non va bene? Perché allora, prima di tutto, lui c'ha una volta si spara, c'ha una pallottola ancora da qualche parte dentro. Vabbè, questo è un dramma personale. Ma lui è un monumento nazionale, è una di quelle cose. Ma che vuol dire? È una cosa, lui. Io sto con Gino Paoli, farei l'asta con Gino. Sì, fai l'asta, Vincino. Ah, io sto con Gino Paoli, l'amo Gino Paoli. Che gli posso fare? Subito. Però le tasse bisogna pagarle. Vabbè, ma queste quisquiglie, dai, Perrino, è un monumento nazionale. Ha pagato tutta la vita miliardi di tasse quello là, non è che perché ha guadagnato anche bene, però lui si deprime, cioè tende alla depressione, non vorrei che si deprimesse. Pare che l'abbiano preso al confine con i denari proprio fisici in mano. Vabbè, ma non è una cosa bella, no? Lui ma è così. Genovese, però di natura. Dai, ma no, dire. Ma devono dare l'esempio ai giovani, se no poi Gianna Nannini, tutti questi. Cioè, no? Ho capito, ma un poeta deve fare poesie, non è che deve dare l'esempio, un poeta deve fare poesie. Ho capito, un ma allora, deve cantare. Vabbè, e quindi. E allora, quindi. Stronzata, basta. Pagherà i danni di questa stronzata e via, ma. Ma piantiamola di. Vabbè, ma infatti mica si sta dicendo che lo vanno a prendere con i ceppi e lo traducono al carcere più vicino. Si accerterà se ha evaso il fisco. La rete è terribile. Sì, l'hanno preso un po' in giro. Ma non è che. Cioè, un conto Gattacicova, senti, Perrino. Gattacicova. Devo dire che è un vicino sorprendente, cioè un po' di satira su Gino Paoli, me la sarei aspettata. Dai, fai una satira. Assolutamente, la mia saggia, io amo Gino Paoli, ho cominciato le prime volte nella mia vita con Gino Paoli. Quindi, non me lo posso dimenticare, sta scolpito nella mia vita. Niente, non lo schiodi, Perrino, possono trovargli lingotti d'oro. Corrado Augias è insopportabile. È un'altra storia, mica scatto canzoni Augias. Lui va a simpatie, così Perrino. Augias non ha dato contributi. C'è una notizia incredibile. Libero, notizia incredibile. In prima pagina, Veronica Lario ha pignorato la casa, la villa al lago di Berlusconi. Silvio, è in grande difficoltà. Oramai sta, diciamo, la maionese sta impazzendo. Non riesce più a gestire il partito, cambia linea politica ogni due giorni, e mi sembra che siamo agli ultimi colpi finali di una vicenda politica che va a concludersi. Vincerà Fitto. Non so Fitto o no, ma comunque si capisce che non c'è il centrodestra allo sbando. Oggi noi su Affari Italiani abbiamo una bella intervista alla Meloni, molto seria, molto rigorosa, che va letta, perché appunto dice non è il nostro goleador Berlusconi. Ah, non è il goleador, però alla fine si è detto tante volte, poi alla fine la zampata la tira fuori, vedremo, vedremo. Però adesso certo, sai che hanno riaperto anche l'inchiesta sulle Argentine, e come no, adesso Veronica Lario che riprende la villa, sono momenti, Vincino, sono momenti un po' così. Come si fa a gestire un partito da Cesano Boscone? È difficile, diciamo, non è che nessun altro al mondo sarebbe riuscito a tenere come sta tenendo lui, con poi la Meloni, un'altra, 3%, cioè, poi alla fine la Meloni è al 3% e lui sempre il 15% c'è, prima della campagna, poi quando inizia la campagna elettorale lui arriva al 20%. L'elogio di Berlusconi da parte di Vincino. È sorprendente, è così, è Vincino. Vincino ci stupisce, però Vincino no, ma quello fa i titoli sbagliati, non è che io faccio l'analista in questo secondo qua. L'analista Vincino, il politologo Vincino, vabbè, politologo. Allora abbiamo 20 secondi, mi devi regalare alla fine un pensiero, perché ancora non te l'ho chiesto oggi, sul 5 stelle, questa rissa vergognosa per chi sale al Quirinale e chi no, è una cosa, cioè, e poi alla fine da track ci hanno sempre loro tre, cioè loro due più quello lo scemo di guerra, Di Maio là, quello totalmente, ma quello calcio in culo, no, mister calcio in culo, non perché mister calcio, perché lui ha detto, dice, beh, venite qua in campagna a Renzo e fai prendo a calcio in culo, no, e allora come dire, un vicepresidente della Camera che dice questo, mister calcio in culo, passerà alla storia come calci in culo Di Maio. Va bene, allora dai, fermiamoci qui, grazie a Vincino, manda la mail a Perrino che ti mettono il busto di Andreotti su affariitaliani.it. grazie direttore, alla prossima. E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:17 minuti, ben ritrovati, cari ascoltatori. È venerdì, forza che è venerdì. E allora sono pronto a leggere i giornali, vi ricordo anche di che parleremo dalle 8:15, di che cosa? Di università, di serie A e di serie B. Perché ci sono, dice il Premier Renzi, è inutile negarlo, in Italia ci sono università di serie A e di serie B. Ne discuteremo con il professor Stefano Pivato, che ha scritto un libro, ex rettore, oggi insegna a Urbino. Ne discuteremo con Francesco Caruso, ex esponente del Global, oggi insegna all'Università di Catanzaro. Di questo parleremo dalle 8:15, ora però tuffiamoci la lettura dei giornali perché ci sono tantissime notizie. È venerdì 20 febbraio, intanto i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore sceglie il Jobs Act, via libera ai decreti, slitta ancora la delega fiscale, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la Grecia tiene ancora in apertura sul Corriere della Sera, Merkel, passo verso la Grecia, per Repubblica Grecia la Germania si divide. La Stampa, la Grecia aiuti per altri 6 mesi, proteste a Berlino ma l'Unione Europea apre. Per il Giorno, Grecia, tutti contro Merkel, mentre il Manifesto mette la foto di Schäuble, il mulo di Berlino, non il muro, ma il mulo, l'animale testardo per eccellenza. Per il Messaggero, invece, Roma sfregiata dai barbari. Libero, Paoli, il cielo in una stanza e i soldi in un cavò.

i preti possano sposarsi, ha mandato un segnale rispondendo così: Papa Bergoglio, il tema è nella mia agenda. Il Fatto Quotidiano ci dedica una pagina. È giunta l'ora dei preti sposati, ci sono due pareri. Alessandro Meluzzi, psichiatra, dice: sono d'accordo, così la Chiesa sarà più vicina ai fedeli, mentre Alberto Melloni dice: no, meglio il celibato, segna il distacco dalle cose terrene. Il dibattito comunque c'è. Sì, vabbè, non ho commentato l'ultima dell'onorevole Buonanno, della Lega, che vuole sfidare l'ISIS, vi giuro non è una barzelletta, andando in Libia. Ha detto: sto cercando di tutto per andare in Libia, faccio subito sapere che se mi rapiscono non voglio che vengano pagati i riscatti. Ed eccola qui, l'ultima follia di Buonanno, intervistato da Libero: vado in Libia e sfido l'ISIS, io non sono un eunuco, d'altronde il nostro è un governo di caga sotto, l'Europa pare la pensione Mariuccia. Arriva Buonanno a risolvere la questione. C'è un tema interessante sulla scuola, e cioè: via le pagelle, arrivano le lettere dalla A alla D. Questo dall'anno prossimo. Ma la carta costa? Ma sì, è qui, due pagine del Corriere, due, in vacanza con i social, Twitter, Facebook, Instagram, i social. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8:18 minuti in punto, cari ascoltatori e cari amici di Radio 24, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi vogliamo parlare di università. Lo facciamo perché un paio di giorni fa il Premier Matteo Renzi ha detto una frase che suona sostanzialmente così: in Italia è ridicolo negare che esistano università di serie A e università di serie B. Per la verità, formalmente tutte vengono considerate allo stesso modo. Per la verità, però, esistono delle classifiche che appaiono di tanto in tanto. L'ultima classifica che abbiamo recuperato, per esempio, è un'indagine che ha messo a confronto 77 università tra statali e private. Il Sole 24 Ore ne scriveva nel giugno del 2014. Leggo da questa classifica: eccellono per esempio le università di Trento e Verona, poi al terzo posto il Politecnico di Milano, quindi Bologna, Padova, Marche Politecnica, Venezia Ca' Foscari, poi Bicocca, Milano, Siena, Torino, queste diciamo le prime 10 posizioni. E poi in fondo in questa analisi possiamo dire Federico II Napoli, Bari, Perugia Stranieri, Palermo, Napoli, Partenope. Diciamo che la spaccatura abbastanza evidente è in questa indagine: al nord università migliori, al sud università peggiori, quella serie A, serie B. Ma sentiamo le parole proprio di Matteo Renzi. Questa storia, la dico in modo molto meno accademico e diplomatico, per cui non si può in Italia non affermare che vi siano diverse qualità nell'università è ridicola. Non è che si tratta di dividere le università di serie A e di serie B perché lo fa il governo. Ci sono già università di serie A e di serie B nei fatti in Italia. Pensare che tutte le università possano essere brave allo stesso modo è quanto di più non antimeritocratico, ma antidemocratico possa esistere. Questo è quello che ha detto Matteo Renzi. Saluto Stefano Pivato, che è docente di storia contemporanea a Urbino, è stato rettore. Buongiorno, professor Pivato. Buongiorno a tutti voi. Ha scritto anche un libro che potete comprare in questi giorni, edito da Donzelli. Il titolo è Al limite della docenza, piccola antropologia del professore universitario. Professor Pivato, esistono università di A e di serie A e di serie B? Comincerei col dire che spesso il nostro Premier parla per slogan e vorrei sottolineare che è pericoloso esprimere un'opinione su quel che ha detto Renzi sulla base di quel poco che si è letto o come poco fa sentito, appunto. È un po' come giudicare un libro dalla recensione di un giornale o di una rivista senza aver letto il libro. Detto questo, l'università italiana viene da anni, da decenni di disparità di trattamento, quindi è innegabile che ci siano delle università, anche se le classifiche sì. Insomma, sono da prendere con grano salis, nel senso che alcune classifiche esaminano alcuni parametri, ne trascurano altri. Però lei dice disparità ci sono, evidentemente. Certo, ci sono. Occorre capire come negli anni si è formato questo benedetto FFO, cioè il Fondo di Finanziamento Ordinario, che costituisce il 90% del finanziamento delle... Ecco, perché questo è il punto fondamentale, essendoci, secondo lei, anche secondo lei, delle università migliori delle altre, usiamolo in maniera brutale questo, vorrebbe dire che alcune università dovrebbero essere finanziate di più rispetto ad altre? Io, guardi, faccio una proposta che può sembrare provocatoria. Dicevo, occorre capire come negli anni si è formato l'FFO, diciamocelo francamente, spesso in maniera clientelare. Allora, ce lo rispieghi bene cos'è questo FFO, che magari non tutti lo sanno. Il fondo di finanziamento ordinario è il fondo che ogni anno il governo, il ministero, eroga alle università. Perfetto. Per il funzionamento, e circa il 90% di questi fondi vanno per gli stipendi degli insegnanti. Allora, dicevo, si è formato spesso in maniera clientelare. Allora, la proposta che faccio io, che può sembrare provocatoria, ma può mettere tutti sullo stesso piano, è questo: azzeriamo una volta per tutte il fondo di finanziamento ordinario, facciamo ripartire tutto il sistema da zero, valutandolo su basi meritocratiche, sui risultati dei docenti, sui servizi offerti, azzeriamolo. Perché altrimenti veramente ci trasciniamo e diamo i finanziamenti in base alle valutazioni, no? Che si fanno. Certo. Quindi alcune, se seguiamo questo ragionamento, prenderanno più soldi e altre meno soldi, quelle migliori prenderanno meno soldi, verrebbe quasi una meritocrazia premiata anche dal punto di vista economico. Sì, io insisto molto sull'azzeramento proprio dell'effetto, cioè un ripartire da zero, perché guardi, noi siamo vittime come sistema universitario di riforme che ogni 5-6 anni ogni cambiano, governo vabbè, fa. Ma questo è ovvio, governo che arriva, riforma che cambia. Però mi fa... mi faccia capire questo, lei personalmente come valuterebbe, mi dica i tre parametri per cui valuterebbe un'università migliore rispetto a un'altra? Beh, la ricerca sicuramente, ma anche la didattica e poi i servizi offerti agli studenti, le mense, i collegi, sulla base di questi tre parametri principali, poi ce ne possono essere altri. Certo, ma questi sono i tre maggiori. Certo. A proposito di didattica, so che lei è del parere di voler abolire i concorsi con la libertà di poter assumere, un po' come si fa negli Stati Uniti, i docenti con contratti privati, per cui le università riescono ad accaparrarsi magari docenti migliori? Certo, è la proposta che vuole arrivare poi al ruolo del docente unico, nel senso che per anni si è battagliato contro i concorsi truccati, concorsi che non renderebbero giustizia appunto a chi partecipa. Allora io dico, facciamo come si fa in molte realtà all'estero, nel momento in cui un'università ha bisogno di un docente, che cosa fa? Pubblica, come avviene quasi ovunque, un bando che compare sui giornali, viene fatto un colloquio, chiaro che ci deve essere una selezione, e se il docente serve, è bravo per quell'università, viene preso, viene assunto per un periodo di 2-3 anni, viene messo alla prova, dopodiché entra nei ruoli. No, ma sono chiare le sue posizioni. Professor Pivato, le voglio presentare Francesco Caruso, che è stato nostro ospite anche di recente. Buongiorno Caruso e ben ritrovato. Buongiorno. Io, per farlo capire a tutti gli ascoltatori, ma è un passato che lei non disconosce, è stato parlamentare, anche esponente dei No Global, in modo che la gente capisce bene, sa, non siamo in TV, non la si vede, ma almeno la gente sa chi è. Oggi lei è professore a contratto all'Università di Catanzaro, presso Sociologia dell'Ambiente. Sì, poi magari vediamo, se vuole, anzi liquidiamole subito, perché ci sono state le polemiche anche per questo incarico che le hanno dato. Vuole replicare a queste polemiche? Sì, oppure? No, molto banali e fuori luogo, perché appunto sindacati di polizia che si arrogavano il diritto di decidere chi dovrebbe insegnare o meno all'università. Fortunatamente poi sia l'Associazione Italiana Sociologia sia il rettore, il direttore del Dipartimento hanno spento, diciamo, queste velleità parte di un piccolo sindacato di polizia. Le chiudiamo qui. Che ne pensa di quello che ha detto Renzi e anche quello che dice il professor Pivato? Guardi che lei a Catanzaro, se tanto mi dà tanto, nord migliori, sud peggiori, credo di poter dire senza che nessuno si offenda che siate più, diciamo, in zona retrocessione, ecco, magari non in Serie B. Sì, è abbastanza un disastro il sistema universitario nel Mezzogiorno in Italia, ma in generale anche in Italia. Quello che manca, piuttosto che trovare un meccanismo, e credo che questo sia del tutto legittimo, di ripartizione, diciamo, più corretta di questi finanziamenti, perché appunto in Italia è stato sempre in vigore un meccanismo clientelare di gestione dei fondi ministeriali, con la conferenza dei rettori, dei baroni, che si spartivano questi soldi senza nessun criterio logico. E soprattutto quello che è ancora più inquietante sono i tagli indiscriminati che vengono fatti all'università in Italia. In Norvegia sono 730 euro che paga ogni cittadino per il sistema universitario, in Germania ne pagano 650, in Italia vuole sapere quanto paghiamo? 105 euro. E questo cosa significa? Che dentro uno scenario come questo di oggi della crisi, dove c'è un investimento maggiore da parte di questi paesi, a fare in modo che la ricerca e l'innovazione diventi uno strumento e un grimaldello per uscire fuori da questo pantano, in Italia non c'è. L'effetto. Però le faccio una provocazione. Io sarei disposto, e magari molti italiani sarebbero disposti a spendere, invece che questi 105 euro, prendo questa cifra che lei mi dà per buona, magari 200, 300, 400, avvicinandosi di più all'Europa, però magari eliminando un po' di università, 90 sono troppe, o eliminandone alcune, facendo un criterio meritocratico e dicendo queste non sono buone, quindi non sono all'altezza. Guardi, l'articolazione e la proliferazione delle università ha avuto un meccanismo, anche questo, diciamo, di gestione clientelare. Ogni città voleva la sua università, e che significava appunto assunzioni, che prestigio, eccetera, eccetera. Però anche un altro effetto rispetto agli anni 50-60, quando le poche università che c'erano in Italia, molto prestigiose, erano accessibili soltanto a una certa fascia sociale, e quindi il figlio che appunto del contadino in Calabria non avrebbe mai mandato a Roma a studiare, e quindi appunto a dare una speranza e una prospettiva di riscatto sociale, di ascesa sociale. Questo ha giocato molto un ruolo all'Università della Calabria, non di Catanzaro, perché la vecchia istituzione nel 71, e si vedeva, è molto interessante, le sedute di laurea, quando tu vedi queste persone che vengono da tutti questi paesini della Sila, e vedi proprio la cultura contadina che entra dentro questo scenario che l'università, il campus universitario, che è comunque internazionalizzazione, vengono gente da... E quindi questo non viene apprezzato, perché chiaramente oggi l'ascesa sociale, la mobilità sociale, la possibilità appunto anche per i poveri, lei dice è bloccato. Per chi abita nei paesi più sperduti della Sila. Non c'è, però mi faccia capire, ma lei come giudica queste parole di Renzi? Cioè, esistono per lei università di serie A e di serie B? Sì, sarebbe stupido negarlo. Il fatto appunto è che noi, quando iniziamo a stabilire quali sono le università di serie B e quelle di serie A, e quindi ci diamo degli indicatori di valutazione, io, attenendomi a quelli dell'ANVUR, quelli del Ministero, tra i 20 atenei più importanti dell'Italia non trovo la Bocconi, non trovo il Politecnico di Torino. Che facciamo? In quella che ho citato io nel confronto, la Bocconi, sul Sole 24 Ore, la Bocconi c'era. Purtroppo non è il Sole 24 Ore, è l'ANVUR, il sistema di valutazione che decide. Insomma, lei dice è ridicolo negare che ci sia una differenza, però la spaventa l'idea che si possono fare... Per lavorare, non per appianare le differenze, per carità. Non è che esistono le... Non mi faccio un discorso egualitarista, appunto. Non è un problema, appunto, che devono diventare tutte di serie B, perché a me sembra questo... Devo diventare tutti di serie A, però forse il timore è proprio questo. Professor Pivato, è possibile competere? Renzi dice di no, con 90 università a livello globale, perché poi il mercato delle università è un mercato globale, non è che possiamo restringerci alla nostra penisola, dobbiamo competere con gli atenei di tutto il mondo, perché gli studenti vanno dove si impara meglio, e poi magari lo scopriremo anche con un ospite dopo la pubblicità. Professor Pivato, si può competere con 90 università? Ma guardi, il numero di 90 università Anche questo è un altro luogo comune. Il problema sono semmai le sedi periferiche alle quali accennavo poco fa, appunto, Caruso, nel senso che a un certo punto, dagli anni 90, c'è stata una sorta di gemmazione di sedi periferiche, ma il numero di 90 università non è affatto elevato per una realtà come l'Italia. Noi teniamo presente che abbiamo, prendiamo i dati OCSE di ieri, in Europa abbiamo, dopo la Grecia, la più bassa percentuale di giovani che non studiano, abbiamo un numero di laureati bassissimo, il 40% di coloro che si iscrivono all'università non giungono alla laurea, le università sono molte di più all'estero, anche sì. Questo è un luogo comune, purtroppo si ragiona spesso proprio perché l'università... Perché le sedi periferiche cosa vuol dire? Perché che tipo di problema costituirebbero? Allora, le sedi periferiche, si è arrivati addirittura al paradosso a partire dagli anni 90 che c'erano le università di quartiere, mi permetta questa provocazione, nel senso che una grande università gemmava delle sedi periferiche, una grande università che so, Bologna, prendiamo il caso di Bologna, ha fatto l'università a Ravenna, ha fatto l'università a Cesena, ha fatto l'università a... Ah, è qui, sono queste ramificazioni che secondo me poi costituiscono una dispersione. Non è la che tra l'altro, torna a dire, in certi casi è stata una cosa molto utile perché l'università deve svolgere anche un servizio sociale, bisogna elevare proprio il livello di istruzione, non è solo un problema di PIL, è un problema proprio di crescita civile. Sì, però io una cosa non l'ho capita, professor Pivato, ma in fondo stabilire che un'università sia migliore delle altre, a meno che questo non abbia delle ripercussioni perché si decide di finanziarne di più una rispetto a un'altra, non è in realtà un discorso, se vuole, di lana caprina in questo senso, quale sia l'università migliore delle altre? Il mercato lo stabilisce già, perché se io prendo una laurea dall'università A e non la voglio citare, e rispetto all'università, una laurea dell'università B, se no se offende qualcuno non le citiamo ovviamente, il mercato magari mi aprirà le porte o non me le aprirà, quindi in qualche modo non c'è già una classifica che le persone sanno quelle università che danno più sbocchi e quelle invece che li precludono questi sbocchi? Sì, certo che c'è, però bisogna eliminare certe differenze, cioè portare dal basso verso l'alto quelle università che stanno in fondo dalla classifica. Io torno a ripetere, bisognerebbe azzerare tutto il meccanismo di distribuzione dei fondi di finanziamenti ordinari, ripartire da zero, proprio perché oggi si taglia indiscriminatamente ad esempio nelle università del sud, proprio perché questi FFO si sono formati in maniera, torno a ripetere, clientelare. Azzeriamo l'FFO, ripartiamo da dei parametri. Va bene, questa proposta l'ha fatta chiaramente. Allora facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con Stefano Pinato, Francesco Pivato e Francesco Caruso. Se volete anche i vostri contributi, chiamateci all'800 24 00 24. Voi cari italiani, se avete studiato all'università, se studiate all'università, se mandate i vostri figli all'università, ritenete alcune università di serie A oppure di serie B? 24 mattino. Sono le 8:40 minuti, siamo qui a parlare di università, di merito, di università di serie A e di serie B, come ha detto Matteo Renzi. Siamo con il professor Stefano Pivato, che ha scritto questo libro Al limite della docenza, piccola antropologia del professore universitario. Con noi c'è anche Francesco Caruso, che oggi è professore a contratto all'Università di Catanzaro. Saluto anche una persona che noi conoscemmo qualche tempo fa perché ospite di Ciao Italia, no? Quando sapete che alla fine delle trasmissioni noi invitiamo sempre un ascoltatore che ci segue dall'estero. Si tratta di Giulio Stella. Buongiorno Giulio, ben ritrovato. Buongiorno Alessandro. Allora Giulio è alla Sorbona a fare un dottorando, giusto? Esatto. Perché alla Sorbona? Perché in Francia? Io avevo vinto una borsa di dottorato in Italia inizialmente e poi dopo circa 6 mesi ho avuto la possibilità di prendere una borsa qui alla Sorbona a Parigi, e chiaramente per il prestigio, per le possibilità che mi avrebbe anche dato dopo, ho deciso di spostarmi e venire a studiare qui. Quindi di cogliere l'occasione, per cui è quello che io dico e sto insistendo da un po', in realtà la questione di università di serie A o di serie B, uno, questo discorso se lo fa internamente, in famiglia, fa le proprie valutazioni e fa una scelta, mi sembra che tu hai fatto questo. Assolutamente sì, c'era... chiaramente, se, come hai detto tu, il mondo del lavoro poi seleziona, vede in che ateneo hai studiato, a meno di non andare nel pubblico, dove tutte le lauree sono equiparate, ma se ti interfacci con qualcuno del privato vede se sei stato all'estero, se hai studiato in una grande università o se vieni da un'università in fondo alle classifiche. Quindi questo tipo di discorso viene fatto, ma in che cosa secondo te riconosci la Sorbona, il dottorando che stai facendo lì, migliore rispetto al dottorando che avresti potuto fare in Italia? Io in realtà spezzo una lancia a favore del dottorato che stavo facendo in Italia, perché ero comunque in una buona università, stavo a Verona, che è molto alta nelle classifiche italiane, e quindi il livello della ricerca era comunque alto, anche quello che facevo in Italia, però il riconoscimento internazionale e appunto il prestigio che dà, le possibilità che permette nella carriera futura, sono comunque il nome conta. Vorrei sentire anche Carlo, ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Carlo, buongiorno. Buongiorno, dica. Sì, allora io sono docente all'Università di Tor Vergata, che ha lavorato, esaminato e validato, diciamo, tutte le classifiche che sono state elaborate sia dal Censis che dal Sole 24 Ore. Allora, premesso che ci sono tutta una serie di problematiche di ordine statistico, perché i parametri che vengono utilizzati molto spesso sono correlati tra di loro e quindi non danno un quadro reale. Sì. Ma diciamo, la cosa che appare evidente è che molti di questi, per esempio, tengono conto soltanto numericamente, diciamo, del prodotto o della dell'evoluzione del processo o del prodotto in uscita, quindi per esempio il numero di laureati in tot anni. Sì. Ma non guardano alla qualità. Cioè alla qualità dei laureati? Qualità dei laureati, quindi alla qualità del processo, a come viene posto l'insegnamento, cioè tutta una serie di parametri. Non è facile, immagino, parametrare, trovare, mettere insieme tutti i parametri. Non è facile, ma ci sono delle possibilità, perché è possibile, per esempio, lavorare sull'attrattività e tutta una serie di parametri che, per esempio, fanno riferimento a delle teorie come la soddisfazione dei bisogni di Maslow, sì, piuttosto che lo stato di flow, quindi di soddisfazione, di challenge che l'università offre. Però ci ho detto, la cosa importante anche da sottolineare, al di là ovviamente dei clientelismi di cui si parlava prima in trasmissione, è che abbiamo fatto anche uno studio di correlazione tra queste classifiche e quelle per esempio delle smart city. Allora si vede che c'è una correlazione stretta, effettivamente c'è una divisione tra nord e sud. Sì. Allora, al di là della classifica di serie A o serie B del singolo università, c'è anche nord-sud. È chiaro, è un problema di contesto in cui le università vengono poste. No, ma Carlo, la ringrazio. Però, Francesco Caruso, lei abolirebbe il valore legale del titolo di studio? Per cui se uno va a fare un concorso pubblico, come ci racconta Giulio Stella da Parigi, se uno fa un concorso pubblico, prendere una laurea in qualsiasi università vale allo stesso modo nel momento in cui vengono equiparate. Lei abolirebbe questa cosa? Guardi, solo quello ci manca da noi, che ci aboliamo il titolo di studio. Come facciamo a dire che essere laureati in un posto è meglio rispetto a un altro per un incarico pubblico? Ma la laurea oggi è una precondizione per qualsiasi tipo di incarico pubblico, non è attraverso una semplice laurea che tu puoi essere valutato, hai semplicemente l'accesso a un concorso, un sistema di valutazione dove poi appunto avrei modo di esplicitare. Quindi lei dice è solo un prerequisito, poi il concorso uno deve vincerlo e se è laureato male e non ha studiato male lo perderà questo concorso. Mi sembra evidente, perché purtroppo c'è una differenza sostanziale tra la laurea della Sorbona effettivamente con la laurea di XY. Qualsiasi persona capace di intendere e di volere, ma appunto ha una la guarda in modo differente. Questo però nel mercato privato, nel pubblico il punto di partenza è uguale, se sei laureato alla Sorbona deve essere giusto adesso, così. Oggi come oggi qualsiasi concorso appunto la laurea ti risolve la selezione e quindi ti dà l'accesso a chissà quale posto di lavoro. Vabbè, interessante, vorrei chiedere anche al professor Pivato, lei che crede, in un concorso pubblico dovrebbero poter accedere coloro che sono laureati in qualsiasi università? Fra settore pubblico e settore privato è innegabile che il valore legale è necessario, obbligatorio per il settore pubblico e per alcune professioni, penso alla magistratura, penso all'avvocatura o all'ingegneristica. Farei questa divisione appunto fra pubblico e privato. Detto questo, bisognerebbe, perché qui si è ragionato sempre in maniera ideologica, il centrodestra che sostiene l'abolizione, il centrosinistra invece che dice non bisogna abolire. Sì. Bisognerebbe vedere quali ricadute ha o potrebbe avere l'abolizione del titolo legale dei titoli di studio. Questo non è ancora stato fatto. Si ragiona anche qui per luoghi. Si ragiona per politica, è come spesso in Italia. E poi quegli steccati che poi portano a non decidere spesso, no? Sì, si fanno gli scontri e non si decide. Senta, mi faccia capire però, perché noi non abbiamo parlato del suo libro, ma magari la inviterò in una nuova trasmissione, perché è questo titolo, Al limite della docenza, piccola antropologia del professore universitario, è chiaro, è variegato al mondo, ma le tre caratteristiche che lei ha riscontrato più frequentemente, magari anche non certamente positive, del docente universitario, quali sono? Il narcisismo, se posso rispondere. Narcisismo. Anziché tre. Una su tutte, il narcisismo. Certo. Lo dirò a mio suocero, docente universitario, narcisista, lo accoglierò così alla prossima chiamata. Giulio Stella, e poi una volta fatto il dottorando, anche pur se tu hai detto spezzo una lancia per il livello dell'università italiana, anche rimanere dopo all'estero è un qualcosa che ti alletta di più rispetto a tornare in Italia? Sì. Certamente, anche devo dire una differenza grossa che ho visto qui è che spesso le aziende vengono a presentarsi, addirittura prendono l'aula magna dell'università e vengono qui a fare degli incontri, fanno moltissime fiere molto ben organizzate per i dottorandi specificatamente, cosa che in Italia nell'anno e mezzo in cui sono stato lì tra tesi e inizio dottorato non ho mai visto. Qui c'è molto contatto con il mondo del lavoro, almeno nelle grandi università. C'è una differenza, c'è una separazione qui reale tra università di serie A e serie B, sono quelle che vengono chiamate grandi école che sono proprio separate dalle università normali e lì le aziende spingono molto e vengono a trovarti, ti cercano, quindi l'idea di stare qui, se l'accoglienza è effettivamente questa... È allettante. Sì. Sentiamo Luciano da Verona, ci chiama. Luciano, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io volevo portare un punto di vista un po' diverso rispetto a quello che ho sentito fino adesso, che parla di università, di amministrazione pubblica, di ricerca ad alto livello. Io sono laureato in ingegneria a Torino ormai negli anni 80, faccio l'imprenditore, la mia è una piccola azienda, 12 persone, quello che io vedo, a differenza dell'offerta che esiste all'estero, è un'assoluta mancanza di formazione continua da parte dell'università. C'è un livello di docenza non altezza? Offerta di corsi per esempio per le piccole aziende. Sentivo prima il ricercatore della Sorbona, parla sicuramente di aziende che hanno dimensioni notevoli che possono permettersi un certo tipo di atteggiamento. Qui in Italia, se tu frequenti un corso, a parte che sono pochissimi quelli offerti dall'università, o fai un corso di laurea, o se ti serve un qualche cosa di specifico nel campo dell'informatica, dei sistemi informativi, di queste nuove tecnologie che ci sono, difficilmente l'università te lo offre, eppure sarebbe una fonte di finanziamento importante. Sicuramente. Degli ingegneri, noi ormai da 2 anni siamo soggetti al concetto di formazione continua. A Verona abbiamo un ottimo ordine che organizza percorsi sì. interessanti. Tutti gli ordini e anche quello dei giornalisti, su questo però si potrebbe aprire un capitolo sulla qualità però, dei corsi di formazione. Ma io devo dire che qui sono abbastanza contento, siamo fortunati qui, ma il problema è come mai una parte di queste formazioni non arrivano dall'università. Sarebbe un modo di autofinanziarsi, sarebbe un modo di esprimere anche la qualità. Per è un'idea Luciano, no, ma è un'idea che lanciamo così insieme alle idee che ci ha portato avanti Stefano Pivato e le idee di Francesco Caruso e di Giulio Stella. Io mi devo fermare per il momento perché altrimenti il tempo del traffico e sforiamo troppo, ma torneremo su questo tema, le università, grazie traffico. 24 mattino. E allora il nostro viaggio per il mondo continua, scriveteci 24 mattino @radio24.it se ci seguite dall'estero. Oggi saluto e andiamo un po' lontano, Gaetano, buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, anzi devo dire buonanotte, so perché sì. Gaetano dove sta? Sono a Dallas, in Texas. Dallas, in Texas. Quanti suona gradi? Bene, Suona bene, bellissima. Dallas, me lo ridica. Dallas, in Texas. Cosa fa in Texas, Gaetano? Io sono un architetto. Ah. Sì. Disegno case. Che bello. Case, li chiamiamo le regge. Ah, regge. Cioè, fa le case regge. Per i ricconi. Sì. E ce ne sono tanti? Sì. In Texas, sì. Ma voglio Dallas, dire... ce ne sono parecchi. Ma a chi? Magari anche a Bush? A qualcuno dei Bush ha fatto una casa? No, Bush no. Bush no. No. Ha una casa normale, modesta, insomma. Ma da quanti anni sta lì a Dallas, Gaetano? A Dallas sono 13. È fantastico, infatti 13. Parla un po' come ha preso anche l'italiano, un po' così, eh? Sì, un po'. E com'è il mercato immobiliare dei ricconi a Dallas? Come faccio a spiegare? Vediamo un po', una casa, la più piccola che il nostro ufficio produce, fa, disegna, siamo sul 1200 metri quadrati di abitabile, si chiama in italiano, sì, abitabile, accidente. Superficie abitabile. Sì, fanta, 1200. E poi andiamo su fino a 2002. E quanto viene una casa da 1200, la progettazione? Quanto costa il lotto? Il lotto, esatto, intanto. Il lotto viene, si aggira dai 4 in su, 4 milioni. La casa... dagli 8, dipende da quanto si vuole spendere. È fantastico. Gaetano, ma come ci segue lì da Dallas in Texas? Col podcast. Col podcast, ma è ovvio. Sì, la mattina la prima cosa ascolto a Milan e dopo sì, sono tutti gli altri. E dopo si fanno soldi, dopo si fanno soldi con i ricconi. Si fanno spendere soldi. Si fanno spendere soldi. Tra l'altro abbiamo ovviamente messo la sigla di Dallas, la mitica con JR. Gaetano, esatto. La richiamerò perché voglio spendere un po' più di tempo con lei, perché è una vita straordinaria, mi sembra, eh? Io sono contento di quello che faccio, devo dire la verità. Manca l'Italia? No, perché guarda, ti ho pensato alla domanda che mi facevi. L'Italia è dentro di me, sono italiano dentro. Ma è fantastico, Gaetano, è fantastico. Un abbraccio, a lunedì.